Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, dai libri di grammatica alla narrativa, il linguista Federico Roncoroni ci parla del suo primo romanzo, Un giorno altrove. Torna in libreria Milan Kundera con La festa dell'insignificanza. Le anticipazioni sul domenicale in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Oggi siamo in compagnia di Federico Roncoroni, ora in libreria con il romanzo Un giorno altrove, pubblicato da Mondadori. Roncoroni, un nome che vi è noto molto probabilmente perché, insomma, è uno dei linguisti più famosi in Italia, ha firmato molte grammatiche che vengono usate nelle scuole, quindi magari i vostri figli stanno studiando sulle grammatiche di Roncoroni, ed è un saggista, ha scritto appunto diversi saggi sia sulla lingua che sull'opera di Piero Chiara, perché erano molto amici ed è diventato di fatto anche il curatore dell'opera di Piero Chiara. Adesso Roncoroni, dopo aver scritto numerosi saggi, libri per bambini, grammatiche italiane e anche un libro di narrativa che però insomma era un insieme di racconti, ha deciso di debuttare nel romanzo vero e proprio, Un giorno altrove, appunto. Roncoroni, perché a questa sua tenera età, dopo tutta questa esperienza, ha deciso di debuttare nel romanzo? Non era più contento del resto della sua attività? No, continua anche quell'attività. È che a un certo punto ho scoperto di avere quello che credevo di non avere, il fiato per raccontare una storia che fosse di misura superiore a quella del racconto in cui mi sono cimentato da tanto tempo. E fatta questa scoperta e avendo, per così dire, senza svelire nulla, il materiale, ho cominciato a lavorare. Il fiato ha retto dall'inizio alla fine. Non c'è un'età per scrivere un romanzo. Lo si scrive quando si può. E questo è stato il suo momento per scrivere appunto Un giorno altrove. È un romanzo molto intenso, drammatico, proprio in alcuni punti. Sembra quasi un memoir, poi ci dirà lei se effettivamente è così o no. Per intenderci, il protagonista è un uomo che vive da solo, insomma uno scrittore, il protagonista è uno scrittore famoso che ormai vive da solo, vive un po' lontano dal mondo, e il libro, il romanzo è composto dalle mail che lui scrive a una sua ex fidanzata, Isa. Noi riusciamo a leggere solo le mail di lui e mai quelle di lei, insomma, però attraverso queste lettere, queste mail, riusciamo a scoprire la storia che c'è stata fra i due e soprattutto la vita che ha passato il protagonista. Allora, come ha voluto descrivere questo Filippo? Beh, questo Filippo è un parente molto prossimo all'autore. Tutti i personaggi dei romanzi in qualche modo sono autobiografici. Anche un'omelette autobiografica, perché da come una la fa c'è parte di sé, insomma. Ecco, c'è sempre parte di sé, quindi è inutile nascondersi dietro a falsi pregiudizi. È un personaggio in cui sono confluiti tanti aspetti della mia vita. Io sì, posso negarlo, ho avuto una grave malattia da cui mi sono salvato contro tutte le aspettative, ho insegnato all'estero, ho lavorato nel campo delle grammatiche, della linguistica, e ho avuto, come hanno avuto tutti, delle esperienze che, di carattere affettivo, sentimentale, che sono confluite in un am che è Isa, Isabella. Non ci sono le sue lettere, giustamente lei ha fatto osservare, non ci sono per rispetto a lei, perché aveva manifestato il desiderio che tutto questo rimanesse tra di noi e io l'ho rispettato. Dalle mie, come lei giustamente ha osservato, peraltro si può ricostruire tutto quello che è successo, anche perché le sue lettere in realtà erano molto scarne. Infatti si dice a un certo punto proprio del romanzo, di cui ovviamente non sveliamo poi insomma il proseguimento. Isa inizia a scrivere delle mail appunto scarne, molto telegrafiche, fatte soprattutto di domande e mai di risposte. Sembra che Isa non voglia raccontare la sua vita, invece Filippo ha quasi un'ansia di raccontare quello che gli è successo, la sua malattia, il linfoma, la malattia della madre, l'Alzheimer, ma soprattutto il momento in cui Isa l'ha lasciato, che era poi il momento della malattia a Parigi. Come ha vissuto lui questo distacco? Quando erano le condizioni in cui era e quando Isa è stata costretta ad andarsene per motivi che chi vorrà leggere il romanzo potrà scoprire, non è che avesse molta capacità di intendere e volere, nel senso che era nel momento peggiore della chemioterapia e del trapianto. E quando si è svegliato, che ha cominciato a pensare che cosa era successo e che Isa non c'era più, d'altra parte era stata messa nelle condizioni di andarsene. E da lì incomincia un lungo periodo che dura 7 anni di assenza di Isa, assenza che finisce con la prima mail che del tutto inaspettatamente... Lei dopo 7 anni appunto invia a Filippo, e di qua questo scambio epistolare di cui appunto noi vediamo solo le mail del protagonista maschile. Ogni tanto nelle mail di Filippo c'è anche una certa rabbia nei confronti di Isa, nei confronti di quello che è successo, sembra quasi volerla scuotere, è così, è questo che voleva intendere? Sì, probabilmente sì, rabbia perché la ricomparsa di Isa non è chiara nella sua origine, nella sua genesi, Filippo non capisce perché è tornata, che cosa si propone, se è tornata per stare per sempre con lui o se è tornata semplicemente per rifarsi viva e poi per fare tutte quelle domande che sono rimaste in sospeso, cioè come Filippo si è ripreso, come ha fatto a resistere a quello che gli è successo, come chi l'ha aiutato, come si è relazionato con se stesso e con Dio, con la preghiera e con i medici. Ma in questa rabbia confluisce sì anche il desiderio di la sensazione che Isa non sia più quella di prima, che non sia la donna libera, immediata, sensuale, disponibile, nel senso bello della parola, che era stata, ma che si sia come chiusa. Quali sono le ragioni di questa chiusura improvvisa, di questa sorta anche di un moralismo che Filippo non riesce a ritrovare nella sua Isa? Ed è per questo che cerca di scuoterla per indurla ad aprirsi, torni o non torni. Vuole capire insomma che cosa c'è ancora dall'altra parte, ecco, insomma, sì, che cosa è diventata sì. Isa. Visto che lei, abbiamo già detto, è un noto linguista, grammatiche italiane, eccetera, che approccio ha avuto alla scrittura del romanzo? Insomma, la sua scrittura è molto misurata, ma nello stesso tempo deve essere colloquiale, perché sono di fatto delle mail che Filippo scrive. Quindi com'è con la scrittura? È severo? È preciso? Scrive di getto oppure ritorna spesso sulle singole parole? Mi sono divertito un mondo. Dopo aver insegnato, ho insegnato anche 16 anni in un liceo, e poi ho insegnato all'estero lingua italiana. Dopo aver insegnato tanto agli altri a scrivere, ho capito che sapevo scrivere, ecco. E mi sono divertito un mondo. Sì, ho la capacità di scrivere una gran quantità di cose di getto. Il problema dopo è limare hanno detto persone, un personaggio per più parte di me, che l'arte non sta nell'aggiungere ma nel togliere. Quindi sì, scrivo di getto e scrivo anche tanto. Poi dopo torno sopra, limo, correggo, metto a punto. Però, ripeto, ho messo a frutto su me stesso un'esperienza decennale, anzi ventennale, di insegnamento della scrittura. E credo, se non altro, di saper scrivere. Ora, di saper raccontare, non lo so, perché è da verificare attraverso il lettore, attraverso quello che legge. Quanto a scrivere, So scrivere, ecco. No, confermo che sa scrivere, lo posso confermare dalla dalla mia piccola poltroncina di Radio 24 e confermo che c'è una storia anche molto, molto coinvolgente in questo romanzo. Senta, un'ultima domanda, Roncoroni, visto che ho la possibilità di chiacchierare con lei oggi e lei appunto è un po' il simbolo dei linguisti italiani. Secondo lei, qual è lo stato di salute della lingua italiana? La stiamo trattando bene o male? La lingua italiana è molto malata, molto molto malata, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del lessico. Il nostro lessico si sta impoverendo in un modo drammatico. Tenga conto che i giovani, i ragazzi, gli adolescenti della classe medio-basse conoscono al massimo 800 parole e ne usano 400, quando una persona di buona cultura e diciamo civile ne conosce 6.000 e ne usa 4.000 o 2.500 a seconda degli interessi. La lingua dei nostri giovani è una lingua di pura sussistenza, quasi da extracomunitario in Italia da poco tempo. Un lessico povero numericamente e qualitativamente insignificante. Tutti stereotipi, trionfo di aggettivi come buono, bello, fantastico. Fantastico, ecco, fantastico. Fantastico va molto. La morfologia sta andando a pallino, nel senso che ormai chi corregge più gli pronome di terza persona singolare? Ho incontrato Maria e gli ho detto, e no caro mio, Maria è una donna fino a prova contraria. Le ho detto. Abbiamo omologato gli al posto di loro, ho incontrato Paolo e Antonio e ho detto loro e gli ho detto. Ma lo stesso per quello che riguarda la struttura, la morfologia del verbo, nel senso che siamo arrivati ad uccidere completamente il congiuntivo. Io penso che Antonio sia a casa, verbo di dubbio, di opinione, congiuntivo, data dubbio, incertezza. Io penso che Antonio è a casa, ma come impostare una cosa in un modo, nella forma ipotetica, dubbiosa e incerta, e poi piantargli lì il tempo della realtà. Lo sconquasso totale del, che in alcuni casi è anche un vantaggio, perché è chiaro che dire se vado in Africa ti porto un regalo è lo stesso che dire se andassi in Africa ti porterei un regalo. Però va perduto tutta una serie di sfumature. A livello sintattico poi costruiamo soltanto periodi di tipo paratattico, coordinativo. La subordinazione ipotassi sono dimenticati ormai. Sono dimenticati. Abbiamo un'imprecisione linguistica che è la spia dell'imprecisione mentale di molte persone, per fortuna non di tutte. Un certo argine la scuola riesce ancora a mantenerlo, ma fino a quando? Fino a quando non diventeremo un paese inglese, un paese che parla l'inglese. Secondo le proiezioni dei linguisti che si occupano di questo aspetto della lingua, tra 150-200 anni, forse molto prima, l'italiano sarà un dialetto parlato localmente soltanto in famiglia di un più vasto apparato linguistico che non sappiamo bene se sarà l'inglese, il cinese o il russo, ma comunque non sarà altro che un dialetto, come adesso il veneto rispetto al bergamasco rispetto all'italiano. Grazie a Federico Roncoroni, ora in libreria con il romanzo Un giorno altrove, pubblicato da Mondadori. Da uno scrittore debuttante, almeno sul fronte della narrativa, a uno navigato, Milan Kundera. Il 30 ottobre è uscito il suo ultimo romanzo, La festa dell'insignificanza, pubblicato, come sempre, da Adelphi, addirittura in anteprima mondiale. Quindi, insomma, noi italiani abbiamo la fortuna di poterlo leggere per primi. L'ultimo romanzo dello scrittore ceco, naturalizzato francese, ormai scrive quasi esclusivamente in francese, L'ignoranza, era datato 2001. Nel frattempo aveva scritto dei saggi, insomma altri testi. Il suo titolo più famoso, lo ricorderete tutti probabilmente, L'insostenibile leggerezza dell'essere, risale al 1984. Altri titoli di successo di Kundera, L'identità, La lentezza, Il valzer degli addii, Lo scherzo. Ma veniamo appunto al nuovo libro, La festa dell'insignificanza. Ne abbiamo parlato con il traduttore e amico di Kundera, Massimo Rizzante. La festa dell'insignificanza rappresenta una sintesi di tutta l'opera precedente di Kundera. E direi che lo è in tutti i due sensi, cioè sia dal punto di vista della forma, sia dal punto di vista dei temi. Dal punto di vista della forma perché Kundera ci aveva abituato nei romanzi scritti in ceco a un formato molto lungo, diviso in parti, e mentre negli ultimi romanzi, quelli scritti in francese, i romanzi erano più brevi, divisi in capitoletti. E qui ritroviamo una sintesi perfetta, perché pur essendo un formato breve, il romanzo è strutturato in 7 parti e diviso in capitoletti, tutti intitolati. E dal punto di vista tematico, certo, perché intanto il titolo, La festa dell'insignificanza, sempre i titoli di Kundera accennano al tema dominante. Pensiamo a, non so, l'identità, la lentezza, lo scherzo. Qui abbiamo la festa dell'insignificanza, quindi la parola chiave in questo caso è l'insignificanza. Però l'insignificanza, uno si chiede, ma che cosa vuol dire? Beh, direi che da un certo punto di vista è sinonimo di altre parole e nozioni importanti, di temi importanti. Per esempio, l'insostenibile leggerezza dell'essere, sicuramente il più celebre romanzo di Kundera. Ecco, quella leggerezza lì è molto vicina a questa insignificanza. Tant'è vero che la parola insignificanza può essere anche, non so, declinata come banalità, frivolezza, ecco. E in questo caso però c'è l'altra parola che è anche importante, la festa, il gioco. Ecco, direi che questo romanzo è un romanzo strutturato come un gioco, una commedia giocosa, che rappresenta il mondo contemporaneo in tutta la sua insignificanza. Kundera ha deciso di far uscire questo romanzo prima in Italia che negli altri paesi. Lui ormai scrive quasi sempre in francese, non più in ceco. Sì. Come mai questa decisione? Io posso solo fare delle ipotesi. Intanto ricordiamoci che l'ultimo romanzo di Kundera, L'ignoranza, uscì nel 2000, cioè sono già 13 anni. E quindi lui non era più, era da tanto che non scriveva romanzi e non era, fino all'ultimo questo romanzo non sapeva se pubblicarlo o meno, temeva un po' le reazioni del pubblico, dei lettori che non comprendessero bene diciamo il senso dell'umorismo, perché c'è anche questo problema del romanzo, c'è un senso dell'umorismo molto sottile. Allora secondo me ha detto, beh, forse come primo passo, come primo saggio, ecco, lo pubblico in un'altra lingua. Quindi io credo che sia anche una sorta di omaggio in questo senso. Secondo lei qual è la grandezza di Kundera? Perché è un autore veramente attesissimo. Ogni volta che esce un suo romanzo ha sempre un successo strepitoso, dall'insostenibile leggerezza dell'essere che già citavamo prima agli altri romanzi. Vede, Kundera racchiude in sé due qualità che sono molto rare negli scrittori e in particolare nei romanzieri, cioè quasi sempre o il romanziere è un romanziere di alta qualità letteraria, ma il suo stile, la sua lingua o la sua forma di composizione è piuttosto ostica, magari difficile da comprendere da un pubblico ampio. Oppure è un narratore puro, un affabulatore, che però manca, non so, di altre qualità, appunto quelle stilistiche, quelle della composizione. Ecco, Kundera riesce a unire le due cose in maniera mirabile, cioè un'altissima qualità linguistica, stilistica, formale, perché i suoi libri sono hanno una struttura musicale quasi, e dall'altra però ha un linguaggio semplice, terso, scarno, elementare quasi, e che lo rende leggibile. Quindi ogni volta che leggiamo Kundera, dico sempre, si può leggerlo 2, 3, 4 volte e si può leggerlo a diversi livelli, la storia, e poi però si può apprezzare anche tutta la struttura. Il nuovo romanzo di Kundera, lo ricordiamo, si intitola La festa dell'insignificanza, pubblicato da Adelphi. Ora invece andiamo a sentire le anticipazioni del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, domani in edicola. Non si è mai troppo vecchi o troppo giovani per essere felici. Chi ha detto questa frase? Vabbè, lo diciamo, facciamo dire subito ad Armando Massarenti, che è responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale che trovate domani in edicola. Armando, allora chi è? Beh, credo lo abbiamo tutti indovinato, si tratta di Epicuro, è una delle sue frasi più famose, ma in realtà Epicuro non è famoso nel modo giusto, nel modo più appropriato. È famosissima la sua lettera sulla felicità, tutti quanti credo l'abbiano letta, ma forse non bisognerebbe soffermarsi sul fatto che non è che noi abbiamo a che fare, quando si dice uno epicureo, che questo ha veramente poco a che vedere con l'insegnamento vero di Epicuro. E perché stiamo dicendo tutto questo? Perché stiamo parlando di Epicuro? Perché domani, insomma, in copertina del Sole 24 Ore c'è una lunga disquisizione su Epicuro, anche perché a partire da martedì 12 novembre, ne ha legato il Sole 24 Ore, ci sarà una collana di collaterali di filosofi antichi per spiriti moderni. Allora, Armando, Epicuro, perché hai scelto proprio lui per inaugurare, insomma, questa collana e questa e il Domenicale del Sole? Perché questo è un progetto in cui io credo moltissimo. Credo che oggi, poi soprattutto nel mezzo di questa crisi che sembra non finire mai, noi dobbiamo nutrire il nostro spirito. Ora, noi sappiamo molto bene che questi filosofi antichi dicevano cose e facevano, mettevano in pratica le loro riflessioni in una maniera che oggi gli scienziati, i neuroscienziati, soprattutto attraverso una serie di esperimenti, dimostrano che erano quelli proprio appropriati. Cioè, se noi vogliamo diventare delle persone più contente, più soddisfatte del nostro lavoro, delle nostre idee, dobbiamo abbracciare uno stile di vita che era quello che proponevano questi filosofi, Epicuro, che era fondatore di una scuola, appunto l'epicureismo, ma anche le altre scuole antiche, lo stoicismo, lo scetticismo, avevano in comune questa idea che perché la filosofia non era tanto sostenere una certa teoria del mondo piuttosto che un'altra, ma era inventarsi una serie di pratiche attraverso delle massime che ci si ripeteva ogni giorno, proprio per diventare più saggi, per diventare più calmi anche rispetto magari alle sciagure che succedevano e quindi raggiungere quella serenità dello spirito che poi è la base per ogni altro tipo di felicità più o meno sofisticata, più o meno complicata. Grazie ad Armando Massarenti, responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore. Vi ricordo che da domani sul suo account Twitter, Massarenti24, parte un esperimento di filosofia particolare. Insomma, seguitelo e scoprirete di cosa si tratta. Noi ora invece veniamo ad alcune segnalazioni interessanti per la prossima settimana. Scrittori in città a Cuneo da mercoledì 13 a domenica 17 novembre, un festival letterario che esiste dal 99, ogni anno è dedicato a un tema diverso. In questa edizione il tema è Terra Terra, 150 incontri che girano appunto intorno a questo tema. Fra gli scrittori italiani e stranieri ne citiamo alcuni: l'inglese Jonathan Coe, Fulvio Erbas, Fabio Volo, Rosetta Loi, Paola Mastrocola, Luca Bianchini, Michele Serra, che racconta proprio la sua esperienza di genitore di figli adolescenti con il suo ultimo libro Gli Sdraiati. Poi ci sarà Mauro Corona, Asaf Gavron, forse lo ricorderete, uno scrittore israeliano, autore di un thriller fantascientifico Idromania, e l'avevamo intervistato qui a Radio 24. Se volete potete recuperare quella puntata su www.radio24.it. Tutte le informazioni su www.scrittoreincittà.it. Arriverà in libreria giovedì 14 la nuova favola per bambini e adulti di Luis Sepúlveda. Si intitola Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, pubblicata da Guanda con la traduzione di Ilide Carmignani. Una bella copertina con le illustrazioni di Simona Mulazzani. E lo scrittore cileno sarà in tour per le prossime settimane per presentare appunto questo piccolo libro. Venerdì 22 novembre a Bra e a Serralunga d'Alba, nel Cuneese. Sabato 23 a Milano, nell'ambito della manifestazione Book City. Domenica 24 e lunedì 25 novembre a Roma. Il 26 a Pescara e il 27 a Firenze. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberto Scaltritti. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.